storia che non so se poi conviene. Hai cancellato ogni ragione, ogni riflesso che con sé porta il tuo nome. Sogni e stelle, e questa pioggia che ora non mi appartiene. Avrei confuso.